Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, i nostri intenti prevedono di parlare di millenarismi, di mani sudaticce, nonché di anatomia e cervello.